grazie Giuseppe. Queste sono una delle tante storie che abbiamo incontrato in questi anni di terratrema, e per questo mi sembra che Giuseppe ha in qualche modo spiegato bene perché abbiamo deciso di fare questo giovedì, per condividere delle storie che a volte ci capitava di sentire tra uno stand e l'altro, o perché prendevamo e andavamo a fare 200-300 km o 1200 nel caso di Giuseppe per ascoltarle, quindi per noi è importante condividerle. Fabrizio, ti tocca. Fabrizio, produttore astigiano, allevatore di capre, raccontaci un po' cosa fai e cosa hai visto.